Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, noi siamo pronti per una nuova puntata di Obiettivo Salute insieme a voi, ma soprattutto dobbiamo prepararci per essere pronti per la ripresa, che in realtà sarà un nuovo inizio dal punto di vista psicologico. Come sapete, ci stiamo allenando da qualche settimana insieme al team di psicologi di Engage Minds Hub, un centro di ricerca dell'Università Cattolica, che ha proprio preparato per noi degli esercizi ma anche dei test studiati e mirati proprio per aiutarci ad affrontare questa nuova normalità. Ma voi come ve la state immaginando? Vi sentite mentalmente pronti? Ci sarà sicuramente un cambio di via, di vita anche, una terza via mi verrebbe da dire. Ma il regista di tutto questo, il nostro cervello, che dice, che pensa, che fa? Scriveteci quello che mi verrebbe da dire, vi passa per la mente, 349-238-6666, quando state ragionando sulla fase 2, intanto in linea con noi, pronto a condividere con noi alcune riflessioni e a rispondere alle vostre domande e ai vostri dubbi, è tornato il professor Piero Barbanti, che è primario neurologo al San Raffaele Pisana di Roma. Buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno, eccomi qua, buongiorno a tutti. Professore, sono passate 8 settimane dal lockdown, ci ritroveremo un cervello più riposato o più stanco di prima? Ma io direi che il nostro cervello è sicuramente più riposato per due motivi, perché durante queste lunghe, per certi versi anche brevi, però il tempo è in certi versi volato, 8 settimane, il cervello ha riposato di più perché abbiamo puntato meno volte la sveglia e si è nutrito meglio, non abbiamo preso i panini così in piedi in un bar o addirittura saltando il passo alcune volte, quindi la ripresa del ritmo sonno-veglia e di una migliore alimentazione più ritmata va a favore del cervello. C'è una cosa negativa però, il cervello vive di stimoli ambientali, anche cromatici, anche di vedere le folle, le macchine che passano, le persone che camminano, e sotto questo aspetto noi siamo un po' deprivati. E poi c'è un altro poi, che è la preoccupazione, che sta cambiando. Ecco. Perché nelle prime settimane del lockdown la paura era il Covid, adesso la paura è cosa sarà di noi, e quindi l'economia, la ripresa sociale e così via. Ma professor Barbanti, quando saremo nella fase 2, come affronterà il nostro cervello questo nuovo tipo di vita? Io dicevo, no? Forse è una terza via, perché non sarà esattamente la vita che facevamo prima dell'emergenza Covid, sarà diversa da quella che abbiamo fatto in queste settimane e sarà qualche cosa d'altro, un mix tra le due, o forse qualcosa di nuovo ancora? È davvero la terza via, perché di fronte a un problema noi abbiamo due risposte arcaiche, sono le stesse che hanno gli animali, il fight or flight, cioè il lotto, cioè distruggo l'ostacolo oppure scappo. E poi c'è la terza via, che è quella che dobbiamo tirar fuori, che è il coping, cioè come gestire. Questa via qui è una via del tutto umana, richiede la partecipazione del lobo frontale, che è quello della pianificazione, e tanta disperazione per certi versi comprensibile, ma anche irrazionale, perché la colpa non è di nessuno, l'unica maniera per difendersi dal virus è evitarlo, è un po' il riemergere delle nostre arcaiche pulsioni, o vinco o perdo, no? Questa volta noi dobbiamo vincere il campionato girandoci intorno. Certo, questa fase metterà a dura prova i soggetti ansiosi, perché il dovere programmare, pensare la giornata li renderà ancora più preoccupati, ma sarà salutare per gli impulsivi, perché a un certo punto dovremo rieducarci in qualche maniera. Professore, noi quindi più che di pancia dovremmo viverla di cervello questa nuova fase? Di fronte, direi di fronte, cioè utilizzando la fronte, sì. La neocorteccia, che è la parte progettuale, che è la parte che dice oggi è così, domani sarà un altro giorno. Ed è vero, noi grazie a questo siamo evoluti così tanto nella specie, sottomettendo a noi, ahimè, anche molto negativamente a volte il nostro mondo, l'ambiente. Ma stavo pensando alle differenze, no, rispetto alla fase pre-emergenza Covid. Noi andremo in giro con la mascherina, forse lo faremo per lungo tempo. Mi stavo chiedendo quanto patiamo il non poter vedere bene la fisionomia delle persone. Magari non ci stiamo pensando, ma poi alla fine, quando io porto ad esempio giù il mio cane e siamo tutti mascherati, le poche persone che incontro, e quindi si fa un po' fatica, mancano un po' dei punti di riferimento a cui magari non prestavamo tanto attenzione, ma probabilmente che piacciono, servono al nostro cervello. Noi abbiamo un enorme viso dentro il nostro cervello, ci sono 36 muscoli, 36 tiranti che sistemano la mimica del viso, e questo è importante perché noi tramite il viso comunichiamo. Se noi guardassimo quanto è rappresentato nel cervello un piede, è piccolissimo, il piede serve solo a reggere il corpo, mentre invece la mano e il volto sono rappresentatissimi. Non solo, esiste un'area del cervello specifica per decodificarlo. Sappiamo che già da piccolini, a 3 mesi, riconosciamo i volti familiari, e alcuni specialisti della neurologia in età addirittura neonatale dimostrano che dopo pochi minuti, le statistiche dicono 17 minuti, è già possibile vedere il piccolino che orienta il proprio sguardo verso visi presentati alla periferia del campo visivo. Quindi questo sicuramente è un qualcosa che non ci lascia indifferenti, l'uso della mascherina, che però invece ci salverà e ci salva. Assolutamente. Di SARS-CoV-2. Professore, noi però siamo in grado di riconoscere una persona con la mascherina solo dallo sguardo. Quando si dice occhi, no, sono allo specchio dell'anima, sorridere con gli occhi, basta uno sguardo. Perché? Cosa ti è successo? Lo capisco dallo sguardo, non è quello del solito. Esatto. È vero, noi puntiamo ci sono degli studi affascinanti su questo profilo. Noi, quando abbiamo una persona di fronte, puntiamo una zona che sta sostanzialmente alla congiunzione tra il sopracciglio e il naso, tra il sopracciglio e gli occhi, e dopo solo guardiamo la bocca. Noi impieghiamo 100 millisecondi al massimo per guardare il viso, e nel primo terzo, nei primi 30-35 millisecondi, abbiamo già visto gli occhi. D'altra parte, per rendere riconoscibile una persona, noi anche nei giornali non vediamo barrata la bocca, vediamo tutti i vari pixel messi sugli occhi. C'è da dire che noi però riconosciamo le persone più dai dettagli interni, quindi occhi, naso, che da quelli esterni. Ovviamente la forma del viso e dei capelli, anche che i capelli possono variare, ma nei visi familiari ci basta un non nulla, anche esterno al viso, per richiamare, perché quello è un viso mandato a memoria. Quindi certamente è una parte, quella dello sguardo, la mascherina certamente lascia libera, che rappresenta per noi l'elemento cruciale del riconoscimento e della comunicazione tra le varie persone. Professor Barbanti, pensando alle immagini drammatiche del pronto soccorso, dei respiratori, delle terapie intensive, avranno e lasceranno un segno indelebile in noi? Come può reagire il cervello? Come superare quel trauma, quelle immagini a cui siamo stati esposti giorni e giorni, che non vorremmo più rivedere naturalmente? Allora, le immagini dei grandi drammi, delle guerre, delle macerie, dei terremoti, le immagini dell'esercito che portava via i poveri corpi dei caduti del Covid rimarranno in noi, ed è giusto che sia così. Perché? Perché il nostro cervello preferisce ricordare le cose dolorose rispetto alle gioie, e questo è un valore finalistico. Se ricordo una cosa dolorosa, in futuro farà di tutto per non cadere in quella situazione. E c'è da dire che la zona che archivia il dato, che si chiama ippocampo, quindi è il centro della memoria, è anche un importante centro emozionale. Ma come faremo però a vivere nonostante questo ricordo? A questo pensa il sonno, perché il sonno ha un'enorme quantità di funzioni per il cervello, è tutt'altro che un momento di relax per la nostra testa. E giorno dopo giorno, sogno dopo sogno, sonno dopo sonno, lava via la componente emotiva del ricordo, e quindi ci ricorderemo di queste cose con una sorta di memento, con una sorta di situazione, da ricordare quello che basta proteggerci, certo. Esatto, ma senza lasciarci più drammaticamente soffrire. Certo, quando poi apriremo una discussione su questo, riapriremo il nostro cuore e la sofferenza. Sì, professore, andrà tutto bene, recita così l'hashtag, anche se io preferisco sostituirla con insieme possiamo farcela, ma come nascono la speranza e l'ottimismo in noi? Nascono dal nostro cervello, noi li vorremmo mettere nel cuore, ma credo che sia il regista che sta in alto a dire la sua. Ascoltando, chi ci sta ascoltando deve pensare che la speranza non è una virtù innata, forse quella è l'ottimismo, è la capacità di pescare nello zaino dei ricordi inavvertitamente, involontariamente, i ricordi positivi, mettere davanti agli occhi come delle lenti rose e vedere il futuro tramite i ricordi positivi del passato. Ma la speranza viene costruita, è un fenomeno cognitivo, attivo, è come mandare a memoria qualcosa, uno ci deve mettere di buzzo buono. E che cosa succede? La speranza e l'ottimismo colonizzano la parte basale del lobo frontale, dove si annida l'ansia. Se c'è l'una, la speranza, non c'è l'ansia. E la speranza è fatta di due elementi sostanziali: la propulsività, una sorta di rombo del motore, di energia che noi decidiamo di mettere, e è fatta anche di una scelta di itinerari alternativi. È come se noi mettessimo sulle tante app del nostro telefonino, per arrivare in una certa località, ti dà 2-3 alternative. Bene, questo è quello che succede nel nostro cervello nel momento in cui ci mettiamo con speranza a pensare il futuro. Quindi sicuramente è un qualcosa in cui noi italiani sappiamo eccellere, perché ricordo che il miracolo economico è venuto dopo la guerra, e gli anni 80 ruggenti con qualche screpolatura, anche forse con più di qualcuno, è nato dopo gli anni di piombo. E quindi la speranza è un qualcosa che noi possiamo costruire neurologicamente, è affascinante. Prende i posti in cui si siede l'ansia, e se c'è lei non c'è l'ansia, quindi siamo più attivi. Perché, come dice il proverbio, chi va all'osto perde il posto. Professor Barbanti, io la ringrazio per essere stato con noi e anche per questo messaggio di ottimismo e di speranza. Andiamo avanti. Grazie, grazie, professore. Grazie. Noi andiamo avanti perché c'è una piccola pausa per le informazioni sul traffico e poi ritorniamo subito dopo insieme, perché l'ottimismo si guadagna anche a tavola. Evviva! A tra poco. Obiettivo salute. Dai, ripartiamo e lo facciamo con ottimismo e speranza. Anche la tavola ci può dare una mano. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il nostro medicuoco quasi cuoco, il dottor Stefano Erzegovesi, che in tutte queste settimane ci ha accompagnato e aiutato a seguire un'alimentazione particolarmente attenta e protettiva per quanto riguarda il benessere psicofisico. Buongiorno dottor Erzegovesi, bentornato. Buongiorno Nicoletta. Allora, dottor Erzegovesi, ripercorriamo un po' i nostri incontri. La prima parola chiave che le metto nel piatto è antiossidanti, indispensabili per tenere sotto controllo lo stress, che in queste settimane si è fatto sentire, ma noi lo combattiamo anche a tavola. Assolutamente, parola chiave importantissima. Antiossidanti vuol dire sapere come funziona il nostro cervello, che è un formidabile consumatore di energia, ma quindi è un formidabile consumatore di ossigeno, e quindi è più esposto al fatto che dove c'è consumo di ossigeno ci possono essere radicali liberi. Quindi proteggiamo il nostro cervello, e questo va bene sempre, ma occupiamoci in particolare di quanto il nostro cervello, nutrito con una buona quantità di antiossidanti, quindi fondamentalmente tutti i prodotti vegetali, è anche un cervello in grado di rispondere meglio allo stress. Pensiamo quanto gli antiossidanti, che può sembrare così banale il dire mangio un broccolo piuttosto che una ciotola di mirtilli, in realtà questo tipo di nutriente ha un effetto specifico sulla nostra resistenza allo stress, ma anche sulla nostra regolazione dell'umore. Ma, dottor Arzegovesi, lei mi ha parlato di broccolo e mi viene in mente il verde, il mirtillo, il color mirtillo, questo violaceo, quindi colore, perché anche l'occhio vuole la sua parte. E di colore abbiamo parlato in queste settimane, sottolineando l'importanza di una tavola colorata. Dottor Arzegovesi, questo lo mettiamo come secondo punto del nostro vademecum. Certamente il colore, facciamoci guidare dal colore e anche dalle differenze di colore, cioè cerchiamo di mangiare nello spettro dei colori dei vegetali, quindi dal rosso al giallo arancio al verde al bluette o comunque al blu scuro quasi nero. Attenzione, anche il bianco è un colore, perché le verdure bianche, e a volte le verdure bianche che quando le tagliamo tendono a scurirsi, come può essere il carciofo o come può essere il topinambur, a loro volta sono molto ricche di antiossidanti, e quindi senza bisogno di perderci in calcoli che a volte ci allontanano da quelli che sono i nostri reali bisogni di sapore e di buone sensazioni, mettiamo nel piatto sicuramente il colore come un altro indicatore fondamentale di salute a tavola. Allora, a proposito di piatto, dottor Arzegovesi, chiudiamo con una ricettina per il pranzo che si avvicina, che racchiude un po' tutte queste caratteristiche. Ecco, allora, partiamo dall'idea, prima di tutto, di privilegiare, abbiamo detto, gli antiossidanti, di privilegiare le fibre, che sono l'altro elemento che facilita un ottimo funzionamento del cervello. Consideriamo sempre e comunque la stagione, perché comunque la stagione ci guida rispetto a quelli che sono i nutrienti che più ci servono in certi momenti. Adesso stanno arrivando gli asparagi, ad esempio, quindi quale occasione per poter usare al meglio gli asparagi? Facciamoci un super veloce riso con gli asparagi. Cosa vuol dire super veloce? Che noi ci teniamo nel frigorifero del riso integrale già cotto. Cotto, come abbiamo spiegato. E come tante volte andate a sentire le ricettine sulla pagina di Obiettivo Salute. Dopodiché? Perfetto. Riso integrale cotto. Prendiamo i nostri asparagi, stacchiamo via il pezzo finale, li peliamo col pelapatate, tranne che sulla punta, in modo che quella fibra troppo dura per essere salutare la togliamo, li tagliamo a rondelline e lasciamo invece intera la punta. Colpetto di vapore, che vuol dire cestello per il vapore, mettiamo i nostri asparagi dentro, gli diamo quei 3-4 minuti di vapore. Che rimangano croccanti. Verdi brillanti, bellissimi da vedere, croccanti, pieni a questo punto quindi di fibre antiossidanti. Mescoliamo il riso con gli asparagi, un filo di olio extravergine d'oliva, diamogli una carica aggiuntiva di antiossidanti con uno spruzzato di spezie, quindi mettiamoci del timo secco piuttosto che del rosmarino, piuttosto che del prezzemolo, giro di olio extravergine d'oliva, se vogliamo un po' più di sapidità ci mettiamo anche un po' di sesamo tritato, macinato e salato, cioè un pochino di gomasio, e godiamoci un piatto semplice. E godiamoci. Il nostro medicuoco quasi cuoco torna, tra poco poi torneranno le puntate della bufala in tavola, ci daremo da fare. Dottore Arzegovesi, grazie per essere stato con noi. Buona giornata, proveremo il suo risottino. Provate. Con un giorno di anticipo rispetto alla nostra tabella di marcia torna a trovarci la professoressa Gwendalina Graffigna, che è professoressa di psicologia dei consumi, ordinario di psicologia dei consumi e della salute all'Università Cattolica e direttore del centro di ricerca Engage Minds Hub, centro di ricerca con cui ci stiamo allenando per attrezzarci a vivere meglio queste settimane di convivenza con il Covid-19 e soprattutto prepararci per ripartire efficacemente nella fase 2. Professoressa Graffigna, buongiorno. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Noi siamo assolutamente pronti, perché proseguiamo con l'acronimo della parola engagement per le sue pillole educative. Esatto, abbiamo parlato e di empatia. Ecco, facciamo un piccolo ripasso. Empatia, N di navigare le giuste informazioni, oggi ci tocca la G. E la G sta per gestire lo stress. Perché indubbiamente in questa nuova quotidianità, poi quella che ci aspetta dal 4 maggio, che è questa fase 2, sicuramente ci aspetta di dover dispendere un sacco di energie, anche mentali, perché dobbiamo un po' riorganizzare la nostra quotidianità. E quindi forse è meglio imparare ogni tanto a rilassarsi, a staccare dai pensieri che ci affliggono. Ecco, la qua la voglio, professoressa, perché è bello sentirlo dire, ma poi metterlo in pratica. Ci sono degli esercizi che avete pensato per noi, efficacissimi? Allora, anche qua, appunto, come si dice, facile dirsi, difficile da farsi, però vi propongo un facile esercizio che sicuramente ognuno di noi può fare, e cioè quello di trovare il nostro luogo bello della mente. Cosa intendo? Ma è facile, basta pensare a quello che è il nostro luogo preferito, dove amiamo andare, dove ci ispira, ci sentiamo rilassati, dove ci sembra di staccare. Oppure pensiamo anche a un bel viaggio che abbiamo fatto, una vacanza dove ci siamo sentiti davvero rilassati, rigenerati, appagati, felici. Domani è pure il 1° maggio e molti di noi saranno chiusi in casa, e quindi l'idea invece di pensare ad un paesaggio, magari un paesaggio naturale, ecco, per esempio per me che sono una marina è il mare, quindi io devo pensare al mare della mia Sanremo, per esempio. Ecco, allora proviamo proprio a rivederlo nella nostra mente, questo luogo, con tutti i dettagli di questo luogo, quindi i colori, i profumi, i suoni, le persone che magari erano con noi in quel momento, oppure la piacevole sensazione di essere soli. Insomma, dobbiamo proprio concentrarci e provare a rivivere le emozioni positive che abbiamo provato in quel luogo. Oh, va bene. Mi piace questo compito, professoressa Graffigna. Inizierò a farlo subito, appena ci salutiamo. Tra l'altro, possiamo anche misurarci e vedere se ci stiamo allenando. Questo è importante perché la professoressa Graffigna con il suo team ci mette a disposizione sulle pagine di Obiettivo Salute un test, vero professoressa, per capire se ci stiamo allenando bene. Io credo che questo test di autovalutazione serva a tutti noi, per cui vi invito a non perdere questa bella occasione che di cui possiamo approfittare. Professoressa Graffigna, faccio un appello. Un termometro, io faccio un appello, provatelo, è un termometro emotivo. Ci fa vedere come stiamo vivendo in questo momento, quali sono le nostre emozioni, qual è il nostro livello di consapevolezza. Provatelo, vi arriva anche un profilo con qualche consiglio. E poi se dialoghiamo, ci date qualche commento. Approfittatene, rimaniamo in contatto. Obiettivo Salute Insieme a Voi in diretta termina qua, è l'ultima puntata, ma noi continueremo a restare in contatto con gli appuntamenti di Obiettivo Salute a partire da lunedì.